L'Europa esce allo scoperto, alza il velo sulle situazioni più critiche e manda in tilt gli investitori di mezzo mondo. Una giornata da dimenticare, quella di ieri per le borse, che hanno mandato in fumo 320 miliardi di capitalizzazione. Non è bastato Bush, non è bastato Draghi, non basta l'ingresso diretto dei governi nel capitale delle banche in difficoltà. La crisi è di inesauribile portata. Da questa presa di coscienza, ieri dalle prime battute, si sono mossi gli operatori, tutti in fuga dalle azioni, tutti in fuga dai titoli bancari. Lo zoppicante via libera al piano americano, da 700 miliardi, molto condizionato e ritenuto insufficiente, e la decisione del governo britannico di nazionalizzare Bradford & Bingley avevano tracciato la strada ad un avvio di settimana pesante per i listini europei. Poi altre notizie a dare il colpo di grazia. Al termine della giornata di fuoco, i listini europei chiudono in calo medio del 5%, con punte dell'8% in Belgio e in Olanda. Anche Piazza Affari perde il 5%, trascinata da UniCredit. Meno 10 punti per la prima banca italiana, ma ormai i primati non hanno più alcun valore. Deborah Rosciani, GR24, Il Sole 24 Ore.